insomma, ecco. Babbo, saluto a tutti, vi ho ascoltato stasera, nel frattempo, anche quando c'era un pochino di macello, presto, però un po' più presto, ci sentiamo domani. A risentirci, ciao a tutti, riprendi pure chi. D'accordo, d'accordo, ciao Giulio, ciao. Alla grande, sempre ho cambiato microfono, sinceramente non so se va bene o... Forse andava meglio l'altro, Giulio. Questo è più 4, l'altro era più 5, credo che spingeva un pochino di più l'altro comunque. Ma non lo so, non se spingeva veramente di più l'altro. Questo va benissimo. Io sto usando lo stesso microfono, l'MB più 4, l'ho abbinato al K, dai. E sto usando quello adesso, T. Ecco, va bene, registrato, va benissimo, va bene, dai Giulio, se devi andare, non ti trattengo, dai, alle prossimine, buona carica, buon tutto, ci riascoltiamo, c'è stato un break, avanti. Sì, buonasera Tino, buonasera Giulio, poi ho sentito di sfuggita Riccardino, c'è qualcun altro? Io. C'è Natalino, c'è Marco anche, che sta pranzando, ciao Roberto, ci sentiamo, dai, Riccardino oggi va proprio... a 1000, arriva qui 9 più 18, una cosa così, dunque più forte di qualcun altro anche, va bene, dai, la posizione è buona, ultimamente bene, sta andando, per cui meglio così, ciao vabbè, ciao a tutti, ciao Riccardino, eccetera eccetera, Tino e compagnia cantante, QRT per me, ciao, mi prendo vabbè. Ciao Giulio, ben sentito anche se di sfuggita, dai, sono curioso di sentire a Riccardo, facci sognare Riccardo, avanti. Ok, ciao Roberto e ciao anche a Giulio che se ne sta andando, adesso sono anche lontano dal microfono, posso allontanarmi dal microfono, meno male. 9 più 30, alla grande Riccardo, è una bomba, dai, radio perfetta, super 5, anche ieri andavi bene, ieri però le 9 più 20, oggi hai guadagnato 10 punti S, sei una bomba, dai, non ne dubitavo, adesso sei effettivamente il più forte in assoluto, a parte diciamo quei due che ci ho vicino, tu arrivi più forte di tutti, già eri forte da prima, adesso sei ancora più forte. Ah, aspetta, Riccardi, guarda bene lo smitter della radio, 1, 2, 3, prova, mi sembra solo che aggiungi l'altro 9,20, che io sono più vicino e a me mi dà 9,5, guarda bene, 1, 2, 3, prova. Sono sicuro. Chi arriva più forte Giulio di me? Se sei un po' comune, sì. Cioè, ma scusa, se prima arrivavo da te 9,20, 9,25, adesso 9,5. Cazzo, ti ha schiacciato di netto. Chi? Dollaro. Prova a parlare Luca che ti parlo sopra, vediamo un po'. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Prova, prova. Non ti ha abbassato. Ma ti schiaccia di brutto. Vuol dire che lui è più libero verso la tua zona. Però è strano che io ti dia un 9,25 e tu mi dia 9,5. Com'è strana la cosa, buh. Ciao Giulio. Già vi potete mettere, cabu. No, dico, no. Cioè, se lui mi arriva a 9,25, Tino, e lui mi dà 9,5, c'è qualcosa che non va. Il segnale più o meno saranno quasi con 20 watt. Boh, guarda, io sinceramente, vabbè, Giulio è più spinto. Io sinceramente non so dove sia, dove abita Riccardo e dove abita Roberto, quindi non posso fare una comparazione tra noi tre, ecco. Boh, non lo so. Non capisco questa... C'è un segnale, una bella differenza. Non so tu quanti volte stai andando. Tu, Riccardo, quanti volte stai andando? Tantissima. Ma chi però? Chi è a Firigheggio? Riccardo, me lo porti più alto di Sassari. Mi è la da su, proprio su, quasi alla fine. Tanto, senza quasi. Ma dove c'è Marco? Sì, sempre dritto però, sempre più in alto. E Marco sarà una 4 chilometri ancora. Ah, ho capito, è bellissimo, zona alta, e vabbè, Luca, sicuramente tu essendo un pochino più basso ti passa. Beh, no, ma comunque Luca ha problemi di antenna, ma Luca ti ricordi che te l'avevo detto già un po' di tempo, che tu hai problemi di antenna, perché tu mi sei sempre arrivato intorno ai 9 più 15, adesso mi stai arrivando al 9 più 5, proprio sono in zitto anche. Aspetta gatta, con un attimino rosso, aspetta un attimo. Sì Luca, sei Santiago 9 anche qua da parte mia, Santiago 9. Io Riccardi a te quanto ti sto arrivando lì dalle tue parti. 9,80. Aspetta. 9,30. solo, pensavo una cosina in più che... E io Riccardo quando ti arrivo? 9:80. Ciao Vannino. Cacchio, 9:40 Riccardino arriva alla faccia, non immaginavo. Comunque Luca da qua è sempre forte, Luca è leggermente meno di Riccardino. Riccardino è 9:30 e Luca con i picchi positivi arriva a 9:30. Giulio arriva quasi 9:20 invece, Tino sei di lì più o meno come Giulio. Guarda adesso Roberto, adesso come arrivo, guarda adesso. 9:20 spaccato, chi è che ha detto io come arrivo? Chi avanti? Con le spalle, non con il picco, no, perché c'è una spalla, lui è costretto. Tu sei 9. Visto, è sempre meglio del picco. Aiuto, fammi, aiuto, guarda adesso, Robè, guarda a me un attimino, hola. Hola. Tu non arrivi a 9:20, sei 9:15 con i picchi positivi. Allora già va bene, dai. Ma perché non provate senza lineari, invece di attaccare i lineari? Va bene, posso anche accettare quella sfida. Cioè, stazionario 1 e 2. Allora, stazionario 1 e 2. Aspetta. Ok, prova. Hola, 20 watt buono l'arrivo adesso. Riccardo ti passa, ti sento sotto Luca, però Riccardo è un po' più forte di te, è il segnale più forte comunque, quasi 9, diciamo tu sei quasi 9:30 con i picchi e lui è 9:30, spaccato Riccardo. Ma bisogna vedere un attimo che sta andando lui però, Robè, bisogna fare i fatti uguali, non è che chi tu è da 50, 60 e la giù 20, andiamo a pari fatti, se no quando compro 747 facciamo le prove. No Luca, infatti non stiamo parlando di potenza o lui ne può avere più di te o tu ne puoi avere più di lui, no? Io parlo soltanto di segnale, poi la potenza è un altro discorso, la posizione idem, l'antenna idem, qua stiamo parlando solo di segnale. Io ho detto che Luca era il numero uno qua come segnale, adesso Riccardino ha passato a Luca, puoi avere anche più fatto di te, questo non lo so, mi immagino sicuramente. Luca! Vabbè, un attimo, allora il discorso è, o si fa a parità di watt la prova, se no tanto vale, non, io sono liscio alla fine, 20 watt dalla radio e basta, non è che sto andando 50, 60 e 100 watt, deve andare a pari watt, altrimenti molta gente qua c'è attaccata, che se stacca arriva molto bassa, molto molto bassa. Come arrivo da te, Robè? Tu sei quasi 9:30, adesso però tu non è il tuo segnale solito, sei un po' più del normale, dai. Perché ho aumentato il watt, facciamo le prove a pari watt, cioè non è, io posso anche abbassare, no? Adesso sono a... ora, 15 watt. Posso? Vai. Allora qua, Gianni, quando tu attacchi il lineare, mi arrivi quanto mi arriva liscio Luca, per farti capire. Vabbè, non c'è problema, e qual è il problema? No, ma dico, allora, non è una lamentela, ma lo dico, Riccardino mi arriva a 9:25, sono più del più 30, e io gli arrivo 9:05, cioè, ora sta andando con tanti watt lui. E l'ho regolata io la radio, Fabrizio, eravamo sul 20 e l'ho regolata io, quella radio sta dando 20 watt di portante, quasi 50 modulati. Per quello allora. È regolata così, è normale, capito, è un 430, quindi, quanto ti arriva Robè Riccardo? 9:30, il segnale è un pochettino più di Luca, perché Luca è quasi 9:30, alcuni picchi arrivano a 9:30, però quando stava parlando Luca, cosa lo passava a Riccardino di radio? Una cosa è sicura, Riccardo vi prega tutti quanti a sorso. A te Franco, non avevo dubbi Fra, te l'ho detto, che tu l'altro giorno metti, io non lo intendo, a che trattenni 4 watt, ma se metti una radio seria come sta usando adesso, io quella zona la conosco bene. Ci ammazza tutti e lo puoi dire forte. E fuori di Tino. Tino è sempre i 9:10, Logan, a 9:20, e l'attacca. E fuori di Dino, abbassata di greba tutti quanti avanti. Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, la zona è quella, Fra. Parliamo sempre di zona, Fra. Tino ce l'hai davanti. Chi hai davanti è chiaro che ti arriva più forte dell'interno di Sasse, ne abbiamo già parlato. Quella zona lì, quando tu mi hai detto io non intendo, mi sembrava strano, però con 4 watt magari era troppo basso, ma se metti una radio seria, cazzo, quella zona ce l'hai davanti, tu è fortissima, è molto alta. Cosa? Io voglio i fatti, cioè è normale, arriva anche più forte di te adesso, prima manco l'ascoltavo, arrivava intorno a 1, 2, 3 al massimo, sentito. Poi da quando ha cambiato l'antenna era appena di più, qualche punto ce l'ha guadagnato, ma adesso supera anche a te. Ma superare a me non ci vuole niente, io mica mi sto lamentando. È più avanti rispetto a me, è davanti a voi, è una cosa normalissima, Vanni. Non ti devo insegnare niente. Poi chiaramente adesso c'è più potenza. Se ti sto dicendo che qua da me è il più forte di tutti, adesso prima era 9,10, adesso è 9 più 30, quindi cosa, è normale, no? Guarda, te cosa gli manca? Un po' più di amplificazione microfonica, metti un bel microfono, giustamente ho sentito che è l'M60, ma sicuramente non si accoppia bene, e poi vedi, perché la timbrica di modulazione non è così. Non si accoppia bene, bubu. Ma a me... Ma aspetta, che rispondo io. Guarda, già sai, c'è bisogno di venire. Vanni, no, non dire cose che no, non si è abituato a dire. Cosa vuol dire MC60? Sta usando il 430 con l'MC60, io sto usando il 430 con l'MC60. Cialla, è chiuso, Fabrizio l'ha chiuso il microfono, anziché essere in amplificazione, è chiuso, perché in amplificazione fischia, ok? E quindi deve rimanere così, capito? Però se apre l'amplificazione, quel microfono scoppia di quanto è amplificato, però fischia, deve vedere alcune cose Fabrizio. Sta usando un 430 uguale a questo con l'MC60 e qua è il segnale più forte di tutti, di tutti. Se la gioca con Luca e con Coso, con Marco Condor, gli altri li crepa tutti, tutti. Guarda, non vogliamo monopolizzare, lo so cosa sta usando, perché le prove prima di te le stava facendo come Fabrizio, hai capito? In meta, fa la trombettina, classica modulazione. Quindi però ti sto dicendo un'altra cosa, non so se sia il microfono, perché adesso da lui ha detto magari a me non è un altro, aver fatto per capire che fosse il microfono, aveva questi problemi, qualche cavo e così via. Vabbè, messo un altro, infatti gli ho detto, io ne ho tre, ma comunque ce ne ho detto, allora uno provare, non ho problemi. Ecco cosa c'è stato, l'amplificazione comunque va molto bassa, non so cosa sta usando, tranquillo, stop. Vabbè, riprendi qua per far girare la fine, che adesso è un po' lì e sta cercando la prima stampa alimentare. No, Tino, Tino la prima stampa la usa la gravidia, giuro. Allora, Tino. Ma non ce n'è problema. No, vabbè, io volevo solo sentire a Claudio se aveva capito che avevo cambiato il microfono, perché, ripeto, l'altro mi si è svampito, se andava bene questo, dai. Mi sembra che ti ho risposto quando l'hai provato già la prima volta, è ottimo, se tu non mi dici che è un microfono normale, io ti posso anche rispondere che per me è un microfono preamplificato, perché è talmente forte la radio che va più che bene, Tino, capito? Non c'è problema, il segnale è sempre quello, 9 più 20, da lì non ti sposti, niente, più di questo non ti posso dire, KK. No, non è il palmare, ho fatto le connessioni a più 4, ecco perché ti ho chiesto un controllo, volevo sapere se andava bene questo qua, al posto del più 5. Va benissimo, io manco me ne accorto, perché se tu non me lo dici, hai quasi la modulazione del microfono normale che stavo usando l'altro giorno, per farti capire quanto è forte il suo microfono originale. Capito? Quindi il più 4 va benissimo, è leggermente con tonalità medio-bassa rispetto al più 5, però la modulazione è perfetta, alla grande. Il segnale 9 più 20, praticamente sì, 10 meno di Riccardino. Ecco. Andare, va bene, era giusto per vedere così se andava bene la modulazione, avanti sul brecco. Cavino da queste parti, una buonasera a tutti. Claudio, come ti sta arrivando? Ecco, dalla zona di Gianni, questo è il segnale che passa a tutti, anche a Riccardo. 9 più 35. Confermo anche io, uguale. Alla grande allora, diciamo che ci sono 35 watt e 40 modulabili. Come sei capito? Io voglio, questo Gianni non te la prenderà male, ma Robè, se hai qualche spiegazione, sono a 50 metri uno dall'altro. Gavino sta usando una Grand Plane e Gianni sta usando una Game Master. Allora, con 35 watt Gavino mi arriva 9,35, Gianni con 80 watt mi arriva 9 più 25, cioè io non riesco a capire dov'è madre natura, cazzo. È la posizione, cazzo, non hai capito, lui è più in alto. E Reggia, ma più in alto Gatto di Nibiglia, Gatto Guindi Siciliani. Ah, pensavo fosse il laboratorio, figurati. No, è via Nolvi, è giù, dove abita Gianni, attaccata a Gianni, una cosa impressionante, cioè credetemi, io sono in radio da ragazzino, ma queste differenze non le ho mai viste, cioè uno attaccato all'altro, capisco Gianni, ma tu non sei basso, attenzione, io ti vedo, come vedo a te vedo a lui, ma c'è un abisso con metà della potenza. Il più piccolo sono io, è inutile che vi arrabbiate, perché il più piccolo sono io. È la posizione, claro, è la posizione. Capito. Davi. Dimmi giù. Ciao Davi, alla grande qua, dopo più 20, alla grande. E abbiamo fatto una trattura ieri con Massimiliano. Diciamo che va bene, dai. Punta la via, è normale che lui essendo più in alto il segnale aumenta. Gianni, cioè non sono arrivato ieri, ti ho fatto una domanda e la pongo anche a Giulio, non capisco tutta questa differenza che avete, cioè tra me e Roberto non ci sono 15 punti S di differenza, tu arrivi attaccato 9,25, lui arriva a 9,35 con metà della tua potenza, te ne prende 10 punti S pieni. 15 dB. Il capo, l'antenna è piena. Io avrei quanti metri ne ha uno e quanti metri ne ha l'altro. Il tipo di capo A e come mette l'antenna. Quanto è stazionale A1 e quanto è stazionale A2. Sono tante cose da verificare. E cosa devi verificare? Oh Vanni, noi non siamo arrivati ieri, cioè lui sta usando una Game Master con 30 metri di cavo, Guido sta trattendo una Grand Prix con 30, con 50 metri di cavo, RG58, di cosa vogliamo parlare? Vogliamo vedere, Claudio, se sono tutti reali quelli che gli arrivano in antenna a uno e quelli che arrivano all'altro in antenna, se non è detto, capito? Però sicuro che sia il capo, la misura, tutto può essere. No, il mio capo è nuovo, RG58 c'è io, RG58 c'è lui. Oh, guarda, non lo so, è una cosa che io non riesco a capire, perché tra me e Roberto queste grandi differenze non ci sono, vedi? Siamo a 400 metri uno dall'altro, un po' più distanti di voi, 9,35 arriva lui, 9,35 arriva a me, cioè non capisco comunque, complimenti a Gavino, cosa volete vi dica. Ciao Giulio, buonasera, ben ascoltato. Franco, lascia PD a Tino, Tino verrai a Danazzi, poi lui è il numero uno di quella zona, non si discute. Oh Claudio, guarda che adesso sono con 3 watt, dai, con picchi di 3,5, guarda ora come segnale. Se andiamo tutti quanti, tutti però a parità di watt, molti non manco arrivano qua. Pensa a due, se andiamo tutti a pari watt, 5, 10, anche 20, molti, ma tanti arrivano bassi. Bisogna andare a parità di watt, poi non è che uno va a 4,40, che uno va a 8,40, che dato va a un baracchino con un amplificatore, non ha senso, dai, bisogna andare a parità di watt, e boh, e si chiude qua, chiudiamo tutto qua, ciao Gavino, avanti. Interessante sentirsi. Perdonatemi perché io sono un po' duro di comprendorio. Allora Gianni, quanti watt stai usando tu adesso? Adesso 9 watt. 9 watt, Gavino, quanti watt mi ha detto che stai usando tu adesso? Gavino. C'è la portante, c'è. Ma cosa di una punta la portante? Dimmi quanti watt stai usando. Sì, adesso sto usando 3 watt, Claudio. 3 watt e mezzo, 3 e mezzo modulabili, modulati. Poi Luca intervieni tu, perché tu sei in mezzo. Allora tu immaginati che Gavino mi arriva con 3 watt 9,25, 9 più 25, io questo voglio capire. Gianni con 9 watt mi arriva 9,18, non arriva neanche a 9 più 20, cioè boh, non lo so, sarà giù don tuo, così di me. A te Luca che sei in mezzo, quanto ti arriva Gavino, quanto ti arriva Gianni? Allora prova Gavino. Allora io adesso sono con 3 watt e mezzo modulati, no? Adesso faccio una prova con la pastiglia. Gianni prova. Guarda, adesso io sono con 9 watt, se vuoi la metto a 3,5 come Gavino. Questo segnale hanno classe 3 sono 2. Qua sono uguali. Perché qua? una alla volta. Cosa hai detto, Luca? Anche qua sono uguali il segnale, sul 3 mi arriva. Vabbè, qua io sono più in alto e Gavino supera di quasi 6 punti rispetto a Gianni. Vabbè, ok, dai. Io comunque vi saluto tutti, dai, chiudo e vado dall'altra parte. Un abbraccio a tutti, buon proseguo, continuate e ci sentiamo, ciao ciao. Ciao Claudio, comunque qua era 9.20 adesso questo passaggio Gianni e 9.25 Gavino. Come arriva a me? Uguale Robè, siamo a 400 metri di differenza. Comunque ciao Claudio, a più tardi. Ciao Riccardi, anche a te, un saluto e ci sentiamo. Mi raccomando, non tocchese, non tocchese. No, non tocchese. Bravo, il motto mio è non tocchese. Avanti, già. Le prove poi si fanno in lontananza, non in città. Si fanno in lontananza le prove. In lontananza ti distrugge già, ma non si ritendi. In lontananza ti distrugge, se arriva 5 più di te qua, figurati come arriva ad Alghero. Ma lo sento che si fanno le prove. No, spiegamelo tu. Bravo, adesso te lo spiego. Intanto bisogna vedere che vattimo sta usando uno e che vattimo sta usando l'altro. Non può dire 3 watt, 5 watt, capito? Sapete, questa giornata gli sarà un carico fittizio, tutto. E poi metterne sotto, e poi glielo spiego. Perché a me arrivano tutte e due più o meno uguali. Magari a te un po' più, che ne so, magari hai questa sensazione che arrivi più sotto, ok? E lui dica che sono 3 watt di portante, 5 modulati, ma a me che watt non lo sta usando. Quindi lo stesso watt non so che è all'altro e lo metti a 3, così capisci se è uguale. Però lo dico, come stai dicendo tu, non lo so come l'ha fatto. La prossima volta, così sì, lo stesso vattimo, prendi tutti e due lì e li puoi. Allora va bene, ma non si 3 vattimo lo ha, te lo di 3 vattimo lo ha. A me che vattimo lo ha, io sono un vattimo che mi ha dato 300 di vattimo, ah, cioè è tarato, non è perfetto, però un carico fittizio, quando è me li fa. Questo non perfetto, capito? Questo è già diverso. Guardi, io a me non mi interessa quello che sono loro, io guardo quello che vedo, col 430, col 440, col 140, col 756, col 950, e ne devo elencare altre, il segnale di Gavino è più alto di 5 punti S da liscio e di 10 punti S da attaccato, e ti sto dicendo quello, poi il resto a me non mi interessa, capito? Non me ne affutti nulla di quanti watt stanno usando, io guardo di quello che dicono loro, non è che posso essere lì a controllare, ok? So che Gavino c'ha un bel baracchino e un bello strumento, Gianni c'ha un bel baracchino e uno strumento della ZG, poi deve vedere lui se i watt sono reali quelli che sta segnando, non lo so, io non so che a casa Giulia, quindi non mi occupo di queste cose, di fare l'investigatore. A me mi chiedi un controllo, io te lo do in base alla mia ricezione e alle mie radio, e stai pur certo che non sono starate, sono molto ma molto precise. 5 decibel, abbreviato DB, non punti S. A pigliare il culo è, dico quello che mi pare piace, conosco i DB e conosco i punti S. A me mi va di chiamarli punti S, li chiamo punti S. Va bene, te l'appoggio. No, va bene, questo è l'utilizzo. Ti prego. A Sanremo. Mi dice che sta uscendo 3 watt, che io ti dico che sta uscendo 1 watt, e anche se da rivedere, un watt sto andando, io adesso ho 1 watt, avanti, bene va, questo discorso che ti sto facendo io. Cosa c'entra le tue radio? Le tue radio non sto dicendo che hanno problemi, non c'entra niente, io ti sto dicendo. Se per fare queste prove bisogna fare carico fittizio, fare le radio, 1 watt, 5 watt, se le metti 5 watt in tutte e due, precise, le metti sotto le antenne di una e dell'altra e lo provi. Così lo sai, non è possibile che ci sia tutta questa grande differenza. Qui arrivano tutte e due uguali, boom, basta, non lo stiamo dire. Non stessa la radio del 101 e il 100 l'altro. Tutti. Vabbè, signori, è stato un piacere, adesso vado a mangiare. Ciao a tutti, buon divertimento. Io ho mezzo watt, ora, mi sentite? Vabbè, dai, questo discorso può venire poi con te che c'hai un come si dice, un dialogo con me sempre quasi in contratto. Io ti ho capito perfettamente e capisco. capisco perfettamente a loro. Tu puoi dirmi quello che vuoi, io qua noto differenza, tantissima differenza. Tu ce li hai vicini, perché sono vicini e di fronte, e sicuramente non hai ostacoli, ti arrivano uguale. A me può darsi che uno abbia un ostacolo, uno è più libero, e mi arrivano con questa differenza allucinante, cosa che io non ho assolutamente con nessuno dei miei vicini. Questo è il concetto. Poi tu puoi dire, insulite baletti biate, carico fittizio o non carico fittizio. Questo è un discorso che abbiamo già affrontato. Ogni zona ha il suo segnale. Io da qua ricevo il centro, il nord, il sud di Sardegna. Voi da dentro Sassari o da fuori Sassari potete fare quello che vi piace, non ricevete quello che ricevo io. Hai capito? Le zone sono zone. Tino arriva a 9.40 perché ce l'hai vicino, quello arriva a 9.30 perché ce l'hai vicino. Certo che le prove si fanno fuori Sassari, non in città. Però questa differenza io non riesco a capirla, perché sono tutte e due vicini. Dai, tu stai facendo una cosa questa, io non ti sto dicendo che tu sei incontrato, io ti ho detto, delle prove si fanno in questo modo, cioè un vaso e un vaso e le chiudi, poi a te può essere che ti arrivi di questo, ti arrivi questo, io non ti sto dicendo che a te non ti arriva, che arrivano, questo è un altro discorso, io ti ho detto, quando si deve fare una prova si fa in questo modo, cioè la stessa potenza ma misurata, no? Che uno di questo due tre fatti, cinque fatti, come li stai misurando, con un fatto in mezzo di che cosa? Non stesso volte non bisogna che lo metta l'altro per avere gli stessi, la stessa potenza, perché ho notato quando scendo uno c'è l'altro, bene o male mi arrivano gli stessi lì. Ma anche a te, che poi uno ti arriva di più, è in base a quello che io ti dico o che lui ti dice, capito? Questo è, lo da volte contatto o contatto. Perché un watt è un watt, la stessa antenna, le stesse posizioni, bene o male dovrebbe arrivare vicini, può essere anche che abbia un problema in campo, mille cose, come gira, se il capo è piegato, sono mille cose che tu variano il segnale della radio. Ma capolo, non è che tu hai o non hai, o la stessa tu hai o non hai, non, io non ti sto contestando questo, io ti ho detto, per fare le prove bisogna farlo in questo modo, basta, finito. Ma io sono d'accordo con te, non è che le conosciamo adesso le radio. Il mio dubbio è come mai, essendo così vicini, cosa che io non ho con Roberto perché abbiamo quasi gli stessi segnali, pochissima differenza, è chiaro che io prevalgo in altre zone, lui prevale in altre, ma come ricezione siamo uguali, non capisco perché tra Gianni e Gavino ci sia tutta questa differenza, essendo vicini. È vero anche che uno magari è a 50 metri più in alto, ma non penso che sia quello il problema. C'è qualcosa, perlomeno da loro verso di me, che cambia tutto qui. Vabbè, comunque, possono dire quello che vogliono, se uno mi dice sto usando 10 watt, sono 10 watt, io credo, se poi anziché 10 sono 50, questi sono problemi sui, a me non me ne fotte nulla, io sempre con 20 watt vado, quando devo aumentare lo dico sempre, quindi non ne ho problemi. Va bene, ciao a tutti, buon divertimento, arrivederci e buon viaggio, compatte e voletevi bene, ciao. Ciao, ciao Cla, avanti a chi tocca. Io, comunque parole sante quelle di Gianni, l'importante è sentirci. Ma infatti, che differenza c'è, uno che arriva dopo il 9 già va bene, non è che devi stare a... Ciao, ciao. Bella in culo. Eia. Quanto arrivi in più, quanto arrivi in meno. Ciao, ciao, mi hai sentito, dai, ci sentiamo con calma. Non si vede la potenza, capito? Gianni, io non le sto facendo un problema di potenza, cioè allora non ci siamo capiti. Io voglio capire come mai, perché essendo vicini, ripeto e ribadisco, tutta questa differenza non l'ho mai notata. Tutto lì, non è che sto facendo una polemica che tu arrivi meglio o tu arrivi peggio. È chiaro che io ho sempre detto, è meglio arrivare 5 di segnale, cioè 5 di radio che è 0 di segnale, perché la radio è quella che conta. Il mio problema è quello, capire come mai lui, quella zona vicino a te, arriva più forte, nonostante tu abbi un'antenna molto, ma molto superiore alla sua. E questo è quello che non capisco, non lo so. C'è anche Giulio, comunque, se vuole riprendere e dire la sua, io rimango in ascolto che vado a mangiare, ciao. Sono misteri dell'etere, no, non mi sono cantato di burrilla, stanno anche a mangiare, dai, vi saluto tutti cordialmente. Buonasera a tutti, ciao Gabino, ciao a tutti gli altri amici, Gabino e via dicendo. Ciao a tutti, ancora di permesso. sì. Ciao Gianni, mi sono aperto un dibattito, mi scuso dai. Oh, mi sono assentato qualche minutino, guerra mondiale è tutto a posto, dai, chi c'è, chi è rimasto? Io ci sono ancora. Poi chi c'è? Claudio ha salutato, chi è rimasto? C'è propagazione dentro QSO, parlate uno per volta, non si capisce niente. Che sono importanti, c'è da località. Io non capisco niente, stanno parlando in tre, mi. Ad esempio, io, Riccardo, Gianni, Tino e Giulio. Lui mi arriva a 9 più 18, come va? Antenna autoconsulita, lui con l'antenna 5 ottavi come si deve. Ecco. Dunque, sono un sacco di cose da tenere in considerazione. Ma futimo zini, diciamo a Sessani che è meglio. Comunque oggi niente contagi in Sardegna, meglio così. Ciao a tutti QRT, chiudo. Giù, avete parlato in tre, tu, Dino e Gianni, non si è capito niente. No, io no perché stavo ascoltando. Ma non eri tu, pensavo eri tu quello più forte di radio. No, stavo ascoltando. Sento a Giulio, infatti io. Beh, Giulio lo senti perché è vicino a te. Qua non si capiva niente. Vabbè, sono in quel X, sì, continuate. Torna in due. Mi sta scoppiando la vescica da ridere. Tanto vuoi ripigliare, non ti impari, no? Sì, Giulio, non le sto facendo una... sempre per capire, o sempre per studiare, e per capire qual è il problema, hai capito? Quindi non lo so, vabbè, dunque. Cosa stavi dicendo, ti? Che sono in quel Rix, continuate pure. No, io me ne vado a mangiare, spengo tutto direttamente, perché stanotte c'è un po' di pioggia, quindi adesso metto a zero la commutazione elettronica, e vi saluto, e ci sentiamo domani, ok? Ciao a tutti e bye bye. Tiro qualche altro controllo volevi, no? No, grazie, dai, sto usando un'altra. Mi è più comoda per il PC. Sì, vabbè, questa non si discute. Vabbè, ma anche l'altra va bene, un bel abbinamento il più 4, va bene, ti. Certo, il più 5 aveva un po' più di acuti, però il più 4 va bene lo stesso. Non so, infatti non riesco a capire cosa gli sia successo col microfono, vabbè, lo farò controllare. Il lavoro aumenta. Vabbè, a me lo fa volentieri. Ci abbiamo fatto delle risate stamattina con Antonio, è passato a trovarmi, no? Sai, dovevo volarle. Mi stava raccontando appunto del 747. Cazzo, una scena, Giga. Chi? Antonio. Antonio. Ah, sì. Antonio. Mi stava raccontando del 747 tuo, ma tu cazzo hai cuppiato. Vabbè, se abbi le luci. Preghiamoci la salute. Sì, figurati. E mi ha detto come però, capito? Me l'ha spiegato più o meno, ha detto, cazzo, chi c'è la Brescia lì? Sempre Blue End e Fendi, che cazzo, invece che ha lasciato la commutazione aperta, come ha schiacciato cazzo aprendo un buco. Che tanto, se ne sono entrati poco, vabbè, pazienza, non fa niente. Vabbè, preghiamoci la salute di fatti, dai. Un abbraccio a tutti, buon divertimento, alle prossime. Ciao Gavino, Marco, Tino, Giulio, Gianni, Riccardino, poi chi c'è, insomma tutti, dai. Un saluto circolare a tutti. Passo il QRT e ci sentiamo. Ciao. Vai Robè, a proposito, domani passo e ti do quella radio. Cazzo bella, 7 pollici. Vabbè, no? Beh, ricordati di prenderti con le istruzioni. Ricordamelo tu, 7 pollici, bellissima. Molto bella, c'ha tutti i cavi dietro da attaccare. L'ha provata ed è funzionante al 100%, c'ha addirittura anche il GPS. Vabbè, domani ci poniamo d'accordo, dai. Vabbè, te l'ho detto, io ti do la radio e tu mi venisci la cappotta. Io voglio il DAC, vabbè, dai, parliamo a voce domani. Ascolta, Robè, se no facciamo una cosa. C'ho una macchina, no? Che però me l'avevo verniciare io. Mi devi cambiare i longheroni. Non me li cambi. Oh, non ha avuto il coraggio di richiamarmi quello lì, cacchio, non già c'è di tu, vabbè, lasciamo perdere. Fa vedere con i principianti, era convinto. Se te l'ha fatta ridicare. No, poi bello, guarda, ti faccio vedere il pezzo nuovo, recuperato da lavoro, tagliato a calamazzetta a scalpello. No, ma lui si sa, è nuovo, non lo vedi che è nuovo, perché che l'hai tagliato a scalpello, l'hai staccato dall'altra macchina, ma c'è di zen. Ma sembrava uno di quelli, quando tu parli con un professore, tu sei l'allievo, non viceversa. Io mi sono trovato e mi sono venuto a ridere, tutti ho detto guarda che non conosco quello là, sono qui lì, che è un qua, è un recupero a rozzami, a futtindini, dai sto scherzando, comunque davanti te la porto, Robè, l'ha portata stamattina e domani mattina te la porto così, la provi, te la piazzi, quella è meglio del camper, non so se mi va a fare delle staffettine, non lo so, vabbè, quello lo vedrai tu, l'incasso particolare. Ci vediamo domani, vabbè, ciao a tutti di nuovo, buona cena a tutti, vai Riccardo, un mostro è Riccardo, vai quante forze. Lo so, non c'è bisogno di fare i complimenti. Comunque ciao Claudio, buona carica e a più tardi o ci sentiamo domani. Un attimo di bianco per me, sono in ascolto. Ehi, ciao Gavì, ciao Ricca, lascia tutto, non tocca, c'è tu e vedrai, c'è del rete di Claudio, a Fabrizio, tu diventi un radioamatore più grande di me. Adesso ti soppianta anche 27, mi Claudio, adesso lo chiamiamo, la nuova torre di controllo. Guarda, io ho già dato, Marco, penso che 40 anni, più di 40 anni in radio ho già dato, mi sono divertito, ho crepato a tutti, ancora ho il titolo di torre di controllo, ma solo perché sono in alto, ma purtroppo sono pronto a lasciare lo scettro a Riccardino e andarmene in pensione, guarda, non c'è nessun problema, oramai io ho già dato, fate voi sì. Ehi, tutto a Caì naturalmente, dai, chi c'è rimasto? I carabinieri. Guarda in finanza, controllami lo scontrino. Quando vuoi Caruccio, tu sì che mi cambi il nervo. Ecco, stamattina stavo per metterti sotto se non te ne esci a mezzo alle balle e cammini sul marciapiede, hai capito quello beh? A me. E allora, raga, eri con una busta in Chivi via Garbonazzi, in via Andendi. Cosa, un almerico sta guardando, l'almerico. Ciao a te, no bastava dirmelo che invece andare al medico ti avrei mandato direttamente all'ospedale, stavo e adesso lo prendo in pieno, invece poi ho deviato. Ti è andata male, hai visto, solo mi avessi fatto almeno la pensione. Meglio a 6 anni Antonio che aveva chi sa pensione, lascia perdere. Dai, riprendete di nuovo, ciao a tutti, me ne vado, non riprendo più, ciao. Ciao cara, ci sentiamo. Ciao Claudio, ci sentiamo domani. Ciao Antonello, Tino, non so se sei ancora X, chi c'è rimasto qua? Facciamo un riepilogo. Avanti, chi tocca? Luca, Riccardino. Sì, sono qui. A quanti centimetri stai parlando, Riccardo, al microfono? Adesso puoi parlare anche più lontano. Lo so, praticamente sono a 50 centimetri dal microfono. Ah, vedi, ogni radio, uno spettacolo, perfetta, bella. C'è una bella radio adesso. Non ti fare troppo grande però, mi ricordi. No, sto scherzando. Non voglio vantarmi quindi. Guarda, adesso sei entrato sotto le protezioni di Claudio. Eri già sotto le mie protezioni, sotto le protezioni di Fabrizio. Adesso sei intoccabile. Avanti compagno. Ah, Reggio Calabria, ben sentito. Qua a nord della Sardegna, città di Sassari, operatore Roberto. Come mi cucco? Mio nome è Roberto, la città è Sassari, nord della Sardegna. Mi ascolti? Sì, poi c'è il mongolo che mi sta portando. No, la portante non la sento io lui. Com'è il tuo nominativo, il tuo nome è amico della Calabria? Ok, ben sentito, Nuvola Nera, Santiago 8, qua Radio 5. Ti rilancio prima a Luca, che poi passa il microfono a Riccardo. Avanti Luca. Cappa, ciao Nuvola Nera, non so se mi ascolti, avanti. Hai ascoltato a Luca, Nuvola Nera? Luca dice in mezzo al corremmere, non so se hai ascoltato, Santiago 9 di questo passaggio comunque, Nuvola Nera, ti rilancio Riccardo, il più giovane qua della frequenza, avanti Riccardo per Nuvola Nera. Ciao Nuvola Nera, ben ascoltato, volevo chiederti se mi sentivi, se mi ricevevi. Nuvola Coronera, mi ascolti? No, era per vedere se arrivavo anche io. Ciao Coronera, salutoni, 7351. Beh, preso a poco in periferia della città di Sassari, zona Cutia da Campagnolo. Scappa, dai, rilancio il mic agli amici che erano in quel Rix, riprendi Roberto. Ma se c'era Luca che stava rilanciando, avanti Luca, se ti ascolta, forse avete parlato in due. Avanti Luca. Dai, riprendete, sto creando un telefono. Ok, va bene l'amico qua. Mi ha detto la città, non ho capito esattamente, vicino a dove sei? Chi è il capoluogo della tua città? Sì, sì, no, quindi sei in provincia di Reggio Calabria. Molto distante da Reggio. Ok, le tue condizioni di trasmissione come sono? Cosa utilizzi? Antenna e che baracchino stai utilizzando? Ottima radio, ottimo segnale. Santiago 9, radio 5. Anche io le stesse condizioni, utilizzo un'antenna Mantova, un altro tipo di apparato, un K44 con un MC60 di microfonia. Ti ascolto perfettamente, dammi anche a me un controllo di Santiago se vuoi. 1, 2, 3, prova radio, canale 10, città di Sassari, operatore Roberto. Ok, grazie per il controllo. Ti rilancio al più giovane sempre, Riccardino, la nostra mascotte, però anche lui diventerà un grandissimo radioamatore, perché è un grande appassionato da poco, però piano piano si sta facendo una stazione sempre più importante. Avanti Riccardo per l'amico Nuvola Nera di Cinareggio. Ok, comunque lo saluto, ciao Nuvola Nera, e mi fa piacere che ti arrivo così forte. Sempre di più, dai, già sei sul 100%. Ok, va bene, grazie. Comunque ti ringrazio anche a Roberto che mi ha fatto entrare. Siete molti CB di lì dalle tue parti, Nuvola Nera. Diciamo questo coronavirus ha dato più spazio e più tempo alle persone per riaffacciarsi alla radio, dai. Diciamo, speriamo che poi duri. Dai, almeno teniamo vivo sto CB che si era un po' perso. Dai, vediamo un po', speriamo bene, un po' è stato soppiantato dal computer e dai telefonini e dalle applicazioni varie, dai. Però utilizzare la radio in diretta è sempre un'altra musica. Ok, è stato un piacere ascoltarti, saluto da parte qua della Sardegna di tutti gli amici nostri, è stato un piacere a te, alla tua famiglia e a tutti i tuoi cari. Dai, ci sentiamo alle prossime, ti rilancio Riccardo per i saluti. Ok, ciao Nicola Nera, ben ascoltato e a risentirci alle prossime. Spero che sappiti più propagazione da quelle parti, di solito d'estate sento più Spagna e non ne sento molto Italia, sull'Italia, quelle parti lì. L'avevo sentito solo una volta, comunque ti saluto. Ciao Nuvola Nera, dai, ti saluto anch'io che ero in Corrix, alle prossimine. Ok, riprendi Riccardo, quando ti arrivava Riccardo il segnale? Mi arrivava a forse comunque, la radio era un po' così, vabbè, un 4 era, però il segnale era forte. Forte quanto, oltre 9 o meno di 9? Meno di 9. Ok, così ti faccio questa domanda, così cerchiamo di capire come sono i punti strategici, come arrivano in certe direzioni, eccetera, eccetera. Anche qua era 9, nei passaggi era più o meno 9, anche qualcosa di più è arrivato in certi passaggi, partiva da 7 a 9, la radio era bella potente, molto amplificata e chiara. A te Tino quando ti arrivava? Poco meno, 8 e mezzo, a 9 non ci arrivavo. Che va? Ero in disaccordo anche, c'è stato un breco? Avanti il breco. Buonasera, ok, buonasera qua Franco La Collina, Scienzo Grazia, buonasera qua a tutti, qua sono appena l'apparato, ok, buonasera a tutti, vediamo qua chi mi ha fatto entrare, grazie. Sì, buonasera qua Roberto, la città è Sassari, c'è in compagnia mia Roberto, Riccardino, il giovane, giovanissimo qua in frequenza, poi Cettino e c'è anche Luca. E ti rilancio il mic con la buonasera, avanti. Siamo a Ruggero, dai, come ho detto qua Franco La Collina di Centro Calabria, complimenti a tutto, bene qua, ok, mi fate un segnale di nome. E la radio super super super, ok. Beh, Riccardino, per l'amico di Vivo Valenza. Un po' di queste B, ma Santiago 9 è molto forte. Comunque ti saluto, non ho capito il tuo nominativo, se me lo puoi ripetere anche tu Roberto, perché poi se non lo capisco alla prossima si può stufare. E adesso mi dirai se hai capito anche tu il nominativo. Giordai, penso che hai lasciato per me. Franco qua. Il Soriano Calabro, città di Vibo Valentia, ok, centro Calabro. Davvero ben sentito Franco, comunque cambio per gli amici qui di Sassari. Vabbè, dai, riprendo io. Ciao Franco, Franco La Collina, si ascolta anche questa piccola stazioncina, dai. Operatore Tango India November Oscar Tino, nonché Muscolo. Ok, sempre dalla città di Sassari, eh? Ok, arrivate molto bene, non lo so se ci avete whisky sotto, però mi fate tutti un segnale di nome qua. Io stavo facendo una carrellata qua a trovare gli amici qua del mio stesso Kodiak, che la sera ci passiamo un'oretta, dove sono fermato qua, che ho sentito qua modulare. Ok, rilanciate voi per gli altri amici, perché io piano piano poi vediamo chi c'è sulla 240, sulla gatta. Riprendo io, Franco, una domanda, le tue condizioni di trasmissione, apparato, antenna e microfoni? No, io c'ho un presidente Jackson, e ho un vecchio qua, lineare qua, Scorpion, che sono in seconda marcia. Ok, sicuramente lo era già in seconda marcia, chiavisti qua, ok, tutto qua, è un'antenna qua, una Firenze 2, una vecchia Firenze 2 che c'ha 40 anni di vita, l'ho ripristinata qua per il coronavirus, per passare il tempo, ok, ho sentito, non lo so se vuole entrare, va bene, ok, cambio per te. C'è un'antenna sulla Loire, un'antenna sulla Loire da Alto Cristiano, buonasera. Sì, buonasera amico, qua a Sassari, anche tu sei da una Calabria, mi immagino, avanti. Sì, buonasera. Buonasera, Ciccio La Collina, che sto parlando con voi, l'amico di Sassari. Stazione Zio Francesco qua, sempre vivo, la ricontorni, siamo nell'appareggio del Ciccio Collina. Siamo qua in questo, siamo in nostro questo locale. Cazzo, 9 più 20 questo. Sì, grazie, sono venuto a trovarli, ok. 25 da me. Qua è vivo Valencia, cambio. Sì, buonasera amico, un segnale bomba, 9 più 20 sembra un po' essere locale, diciamo, un segnale locale, radio fortissima, molto potente, anche tu c'hai, e forse ti stai aiutando con qualcosa. Come sono le tue condizioni di trasmissione? Capo, come scusa Ciccio, ciao Ciccio, buonasera, comunque, sì, le mie condizioni è un 48 con 12, siamo un Alfa Lima e 507, seconda marcia. Una Mantova 5, altezza su 3 piani, diciamo sulla tribù familiare che ho io qui in campagna, e non c'ho assusta, come ha capito, cambio. Complimenti, ultima radio, ultimo segnale. Se mi vuoi dare un rapporto da parte tua verso di me, e poi ti rilancio l'amico Riccardo e poi Tino. Cancellante a 9.10, la radio Super 5, ok? Non ho capito il tuo nome di battesimo. Mio nome è Roberto, nominativo qua in frequenza quadrato. Ti rilancio un attimino Riccardo, che è il più giovane qua della frequenza, come ho detto prima, e poi ti rilancio a Tino, e c'è anche un altro amico, Antonello. Prima Riccardo, avanti Riccardo. Ok, saluto all'amico del Sud Italia. Comunque state arrivando tutti fortissimi, oggi la propagazione è stabile nel Sud Italia, e saluto a tutti quelli anche in ascolto lì, come detto, il Sud Italia, Reggio Calabria e quelle parti. Ok, ok, ripeto io, Riccardo, sì, 9-9, segnale 9, la radio sempre 4-5, dai, la prima, la bella vocina che c'hai Riccardo, cambio per te e poi fa girare. Ok, grazie mille, faccio girare per Tino. Bene, dai, riprendo anche io. Salutone a, diciamo, la Sassari periferia, ecco, Cutriaca Campagnolo, qua stazione Tino Muscolo. Salutone a tutti quanti, arrivate magnificamente tra i 9, 9, 10, anche i 9, 15 volati, quindi complimenti alle vostre stazioni. Datemi un controllo anche a noi, dai, un controllo radio anche a noi, giusto per verificare se anche queste stanno andando bene, eh. Rilancio il mic all'amico, avanti. Francesco mi chiamo, ho capito, Muscolo. Io mi chiamo Francesco, qua vivo Valencia, insieme diciamo al Ciccio Collina, dai. Va bene, il tuo rapporto 8-8, sillante su 8.5-9. La radio è buona sui 4, ok, perfetta. Va bene, noi qua siamo, diciamo, aperti, io sono aperto, Poi c'è l'amico qua, amico mio qua di Ciccio La Collina, che c'ha un'antenna sulla piantata, su una pianta di ulivo, e lui è più alto di me, Poi rilancia Ciccio, Ciccio, sempre la microfonia, cambio. Grazie zio Ciccio, zio Francesco il Principe, grazie, dai. già questo corona, dai. E vabbè, ma ci facciamo ascoltare, Ciccio, è vero che io sono in una conca, qua che sono chiuso, però ci arrivo, dai. Ci facciamo ascoltare tutto qua. E niente, qua pure, mi sono fermato qua, Ciccio, scusa se ti ho splatterato, se stavi modulando su qualche altra frequenza, però non ti ho sentito. E ho fatto una carrellata qua veloce e ho ascoltato qua gli amici. Ok, ho deciso di farci entrare per salutare. Sì, ok, complimenti Riccardino, dai, segui qua, sai che è una bella passione. Sì. Almeno che ce ne fossero giovani qua che prendono qua la passione, non più con i cellulari. E via dicendo, almeno qua ci passiamo 10 minuti tranquillamente e siamo più socievoli. Ok, e io qua rilancio per tiramuscolo un'altra volta, dai, e poi fa girare lui. Bene, dai, ne approfitto ora che ho il mic, anche perché proprio per salutare veloce voce che devo spostarmi dalla radio. Mi ha fatto piacere incrociare le nostre antenne, dai, anche perché ora inizia la propagazione e chissà quanto dura, però un saluto grande, un 7351, dai, alla prossimine. Passo in QRT esecutivo, rilancio il mic a Roberto, aspetto i saluti e poi vado via, ok? Ciao a tutti. Ciao Tino, mi hai sentito, buon QRT, dai. Comunque la città è Sassari, non è Cagliari, per ricordarlo, noi siamo al nord, loro sono tutti a sud. Ciccio, ti ascolto perfettamente, Radio 5, segnale oscillante da 9 a 9 più 10. Adesso lanciamo di nuovo Riccardo, avanti Riccardo per i saluti a Tino, che poi saluterai Ciccio, l'amico giù di Calabria. Ok, saluto, ciao Muscolo, e a risentirci. Saluto anche all'amico del Sud Italia. Ciao a tutti, comunque come ho detto sono felice che ci sia un po' di propagazione verso il Sud Italia, che ne avevo sentita poca da quelle parti, di solito è sempre Spagna. Prendo io, dai, riprendo il mio Francesco qua, sempre in Vibo Valentia, salutando il mio Muscolo là, con i cordialità, sì, saluto anche Roberto, anche Claudio Lino, il ragazzo, e saluto tutti quanti, la popolazione sta scendendo, la popolazione mi sta scendendo, vi saluto tutta mano girante da parte mia, buon questo lì in quelle parte, da parte mia alle prossime, vai Ciccio! A Barogger, dai, ok, saluto l'amico Muscolo, ok, ben sentito qua per la primiera, speriamo che le prossimine ci ascoltiamo, dai, ok, se la propaganda sta andando via, vi saluto pure io che torniamo qua sulla sul nostro canale per vedere gli altri amici, se no magari li disturbiamo, ok, voi continuate il vostro questo, va bene, ciao ragazzi, ciao Roberto, ciao Riccardino, ciao a tutti, Antonello, ok, è stato un piacere ascoltarvi, parole con voi. Qua Francesco La Collina passa sull'altra frequenza. Alle prossime ragazzi, ciao e buon tutto. Yeah, ciao, ricambio i saluti, è stato un piacere ascoltarvi, speriamo si possa ripetere prossimamente. I segnali voci sempre ultimi, molto forti, diciamo ancora qua non è calata la propagazione, vi ascolto sempre molto ma molto bene. Rilanciamo un attimino Antonello, se c'è ancora, che l'abbiamo tenuto in stand by, così vi saluta anche lui. Avanti Antonello. Salutoni a tutti da parte mia, ben ascoltati, ogni segnalone, così vate un chilometro da casa mia comunque. Va bene, non c'è problema, sicuramente a voi e salutoni da parte mia. Scusa Antonello che non ti ho salutato, ma va bene, io sono tutta la roba circolare. Mi devi scusare Antonello, qua zio Francesco Vibo. Non c'è problema. Qua arrivi 9.20, 9.25, boh, un segnale molto forte, io non so quanto sto arrivando da te, la verità, sto usando un mano a toppa 7 e un microfono Salerta CM40 special. Ok, ok, qui da me mi fai 5 oscillante, 5 oscillante, 5 comunque, 45 qui da me, ok? Scusate, se riprendo io saluto a Francesco perché ho sempre paura che finisca la propagazione. Lo saluto e a risentirci. Già fa da un fumo se la propagazione. Che bello in casino. Ah, avanti si è attrezzato, no? Quasi 9.30, sì, 9.25 qualcosa. Abbastanza non è, troppo distorsione. Esagerato, adesso va bene. Sì, cacchio, cosa stai facendo? Senti, ma un rimbombamento. È la camera che mi fa questo casino. Sono in salone, capito? E quindi fa la rimbombo. No, adesso già sta uscendo bene, dai, hai visto Riccardino? Bella radio, bel segnale, tutto. Sono contento che si abbia comprato un apparecchio, vabbè, non è che sia le modelle moderne, però va bene. E ricominciare, lui a me è fortunato, io ho cominciato con l'FM, cioè con lo Pace 123, poi multimode, dopo il multimode il presidente R7, dopodiché mi sono girato le balle, c'avevo il multimode 3, poi mi sono girato le balle e mi avevo comprato il 140, il 680 la Cloud. Poi lineare, la 600, BV2001, MK3 e facevamo il muro di Berlino. Già lo so, già ne hai avuto tu diverso di radio, ok, lui diciamo adesso finalmente vabbè, l'ascoltavo bene, anche tu l'ascoltavi bene anche da prima, però finalmente adesso è anche forte per quelli che sono più lontani, non ha nessun problema. La cosa fondamentale da quando ha messo l'antenna, le cose sono cambiate dal giorno alla notte. Il bello è che almeno mi posso allontanare la bocca al microfono, non ne potevo più. E quello è importantissimo, dai, io non ci riesco a usare i mic da palmo, ne avrò una quindicina, anche di più, 20, tutti buttati dentro, non li utilizzo uno, solo nell'anno 48 c'è un M93, ma lo uso raramente l'anno 48. Io ho l'FM500S, ho il 3000, il Condes 4000, il Superstar 3009, l'A87 e lo Yaesu, l'ultimo compatto è quello, figurati tu. Cosa è andato a fare? Non mi ricordo neanche più di quello che c'ho, la verità. Però ne ha avuto un bel apparecchi 80, 140, l'unico che mancava è 430, 440 la verità. Però mi sono accontentato. Ok, lasciamo un attimino di bianco, vediamo qua canale 10, chi vuole entrare, attenzione, sul 10, chi vuole entrare avanti. Comunque Roberto. Lascia un attimino che c'è qualcuno avanti. Tedeschi. Attention Germany, do you copy Italy? Vabbè, capire se è Germania o Austria. Attention please, do you copy Italy? Oh, l'ultimo passaggio, se vuoi rispondere. Break Italy, attention please, break Italy. Yeah, break Italy. Good evening, this is Kilo Mike in Germany. Ok, my friend, Yoshila is 9, Radio 5, QSL. QSL, you're also 5 and 9, very nice signal this evening. We have good conditions here today. Ok, my friend, ti rilancio quale, my friend Riccardo, avanti Riccardo. Ok, Riccardo, name here is Michele, Michele is my name, Roger. Your name is Roberto, ti rilancio Riccardo, avanti Riccardo, go Riccardo. Hello my friend, I am Alpha 21, Sassari, in Sardinia, Island. Aspetta Riccardo, mi dà il tempo di stava a parlare. Michele, go Michele, over. Yes, my QTH is 80 kilometers north of Frankfurt, QSL. My QTH is Sassari, north of Sardinia, Sardinia Island. Ah, very good, Sardinia Island. Ok. your condition, the transmission? Crunch number 2, President Crunch number 2, and antenna is Luma number 2, QSL. Ok, QSL, my station is Kenwood 440, radio MC, microfonia MC 16, antenna Mantova 1. Mantova, signal Mantova, very nice, very good equipment. Riccardo, over Riccardo. Ok, Roberto, hello my friend, I am Alpha 21, QTH Sassari, in nord della Sardegna, niente, Roberto, come hai detto tu? Riccardo, you are 5x7, your signal report is 5x7, very nice. Santiago 7 dice ti ascolta, radio 34. Ok, ciao 73 my friend, ciao. Thank you very much, good evening and take care. Ok, ciao. C'è Eugenio, adelante Eugenio da Porto Torres City. Vai Riccardi. Ciao, come mi senti così? Dove sei? Chi è il più forte? Dille che è il più forte, Eugenio. torto, non mi piace questa popolazione, esce bene, ma non mi piace. Maria. Non ti piace la mia modulazione, Lucio? Ho detto, no, non la sua, no, non la mi piace, non la sua, ma non mi piace. Ho sofferto, arrabbiato. Oh, non ti piace, vai Riccardia, avanti. Che? Non ti piace la mia modulazione? Ho fatto tanti sacrifici e tu mi... Vabbè, no, scherzo. Dico, non ti piace la modulazione? No, non ho capito cosa mi ha detto. Stacca un po' la bocca al microfono. Parla più lento, Ricca. Ok, scusatemi. Stavo dicendo, che quindi non ti piace proprio la mia modulazione. Strano. Ah, esci forte, esci bene, però per me è colpa, non lo so. Non lo so cosa dire, è colpa per me. E a me mi ascolti male.